America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, intanto la comunità dei pendolari, devo dire, è sotto shock a New York per l'incidente di ieri sera. Il treno della Metro North che va verso Dutchess County, Upstate New York, un treno normalissimo, porta avanti e indietro milioni di persone ogni giorno, e beh, ha colpito una Jeep che si era fermata sui binari, si trovava sui binari, è morta la conducente dell'auto e sono morti ben 5 passeggeri del treno, 6 morti in questo incidente che ovviamente non doveva succedere. È partita un'inchiesta per capire quale sia stata la dinamica, ma c'è una tragedia, devo dire, forse anche più grande che ci preoccupa molto oggi, ed è la tragedia dell'ISIS. Che fare? Che fare quando un prigioniero inerme viene bruciato vivo? Muhad el-Kassab, 26 anni, tenente colonnello, la storia la conoscete, era stato catturato dal califfato il 24 dicembre ed è stato poi bruciato vivo. Insomma, qualche cosa deve succedere, bisogna che si trovi il modo di ostacolare l'avanzata dell'ISIS. E ieri sera, ieri notte, c'è stato un incontro alla Casa Bianca tra il presidente Barack Obama e il re Giordano Abdullah. Sentiamo. Should in fact this video be authentic, it's just one more indication of the viciousness and barbarity of this organization. I think we'll redouble the vigilance and determination on the part of a global coalition. Ecco, il presidente americano ha parlato per primo, l'incontro è stato nell'ufficio ovale dopo la notizia dell'uccisione del pilota Giordano. Il re Abdullah naturalmente addolorato, ma più che addolorato, indignato per quello che è successo. Barack Obama, la reazione ufficiale, naturalmente ha condannato le azioni dell'ISIS con forza assoluta e dice che questo video rappresenta solo un'altra dimostrazione della cattiveria, della brutalità di questo califfato e ci mostra dove può arrivare la degenerazione di un'ideologia e rafforza la nostra determinazione a sconfiggere l'ISIS. Dopodiché ha detto: attenzione, dovremmo raddoppiare la vigilanza da parte della coalizione internazionale per far sì che vengano distrutti e sconfitti. Questo è l'obiettivo che Barack Obama ormai ripete da molti mesi: dobbiamo distruggerli e sconfiggerli. Tra l'altro, dopo l'uccisione del pilota, il Pentagono ha chiarito che non cambieranno le dinamiche dell'ingaggio, perché sono piloti americani che volano nella regione, che fanno bombardamenti e sono esposti al rischio anche loro di una cattura nel caso uno degli aerei venisse colpito, ma hanno detto le fonti del Pentagono che non è cambiato nulla, che le missioni restano invariate. Sentiamo il re di Giordania. With all sadness and tragic, we received the news and also anger, the news, the martyrdom of the hero pilot Muhad al-Kassab. Il sangue del martire, avete detto, non sarà versato in vano. È un martire questo pilota, la vendetta sarà proporzionata a questa catastrofe che ha colpito noi tutti giordani. Non sappiamo che cosa si sono detti i due leader, ma su quello che sta capitando, devo dire, si impone secondo me una riflessione, perché non è possibile sconfiggere l'ISIS soltanto con dei bombardamenti aerei. In una situazione di questo genere devono essere i paesi della regione a dimostrare di voler combattere questo nemico, questo bubbone. Lo devono respingere, lo devono distruggere con una coalizione, l'Arabia Saudita, la Giordania, i paesi del Golfo dovrebbero davvero organizzare un esercito e marciare in Iraq e con l'Iraq contro il califfato per distruggerlo con l'appoggio delle forze aeree occidentali. È davvero un cancro questo dell'ISIS, questo del califfato, queste uccisioni, queste esecuzioni, lo sgozzamento del povero giornalista giapponese ci lasciano naturalmente senza parole. Ecco, quello che sta capitando nella regione però fa parte di un contesto più vasto, di una partita più vasta, e che io non vorrei che si perdesse di vista quelli che sono gli obiettivi importanti di medio termine, cioè liberarsi del califfato. Perché dico questo? Perché dall'Arabia Saudita abbiamo avuto notizia di un pressing sulla Russia per cercare di ottenere da Mosca un allontanamento dal regime di Bashar Assad a Damasco, in Siria. L'Arabia Saudita è ossessionata con questa missione di voler liberarsi di Assad. L'Arabia Saudita è infuriata, arrabbiata con gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro, si sono messi d'accordo con la Russia per l'eliminazione delle armi chimiche. L'Arabia Saudita è preoccupata dall'Iran. L'Iran sostiene il regime di Assad, sostiene anche Hezbollah. C'è dunque un gioco geopolitico non secondario, e in questo gioco geopolitico non secondario sappiamo da ieri con certezza, ce l'ha rivelato il New York Times citando fonti assolutamente attendibili dal governo saudita, che Riyadh usa l'arma del petrolio per convincere Mosca a fare un passo indietro. Ecco, io credo che sia la strategia sbagliata. Sappiamo che Mosca ha già dimostrato di non voler cedere alle minacce o alle sanzioni di tipo economico, tantomeno farà un passo indietro perché glielo chiede l'Arabia Saudita. Certo, i danni sono molto più forti per Mosca e per la Russia che non per l'Arabia Saudita. Pensate, è vero che l'Arabia Saudita con il prezzo del greggio su questi livelli si trova in difficoltà. Perché? Perché ha programmato spese pubbliche sulla base di un prezzo del greggio a $100, adesso è attorno a $50 e dunque ha un disavanzo di circa 39 miliardi di dollari nel 2015. 39 miliardi di dollari per l'Arabia Saudita fanno male? No, non sono neanche un pizzicotto. Perché? Perché i sauditi hanno depositi, riserve per 733 miliardi di dollari in risparmi investiti all'estero a basso rischio in titoli del tesoro americano. Dunque hanno la possibilità di poter finanziare questo disavanzo per anni addirittura, non per giorni o per mesi. Ecco, questo lusso la Russia non se lo può permettere. Dunque la situazione è difficile, il petrolio diventa di nuovo un'arma di scambio, petrolio che però dopo queste rivelazioni, e cioè il fatto che il prezzo sia tenuto basso per una ragione politica e non per una ragione di mercato, è rimbalzato ieri addirittura del 7%. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, e non posso fare a meno di continuare a pensare al pilota Muhad al-Kassab, che è stato incendiato da questi barbari del califfato. Credo che noi tutti sentiamo così un profondo senso di solidarietà, di pietà nei confronti di questo giovane di 26 anni, dunque consentimento credo da parte di tutti. Dedico a lui la canzone del giorno, Feelings di Maurice Albert. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.